Ciao carissimi, allora, oggi sono stato a messa e come suggeriva Piero Coda, ho cercato di stare a messa anche per coloro che tra di noi non possono o non potevano andarci oggi. A volte sarò io che non riesco, per cui conto appunto sul contraccambio per chi potrà. E ricevevo un'email da una focolarina, Dina Brighenti, del centro zona di Trento, che è anche amica di famiglia ormai. Lei era a Cadine ieri pomeriggio e sapeva del nostro incontro. Nel suo desiderio ci sarebbe stata l'eventualità di potermi salutare e di poter salutare Marilena, dato che eravamo in maniera speciale presenti entrambi, e invece scrive nel messaggio che mi ha mandato via SMS: deve essere stato speciale per non fare neppure un intervallo. E in effetti è stato speciale quello che è accaduto ieri, quello che nella mia anima è risuonato durante la Santa Messa, al momento dell'Eucaristia in cui ho rinnovato con ciascuno di voi il patto, è stato un senso di profondissima gratitudine per ciò che ieri abbiamo vissuto. Gratitudine alla Madonna, gratitudine a Gesù che è stato presente tra di noi in maniera intensissima, in un momento di luce che probabilmente ci lascia un po' tutti attoniti, quell'attonimento in cui si trova adesso la mia anima, sapendo che qualcosa di speciale è accaduto. E di questo qualcosa che è accaduto io sento con riconoscenza, ripeto, di far parte, e con riconoscenza e con responsabilità. Come diceva Piero, noi siamo responsabili del dono che ci è stato fatto, ovviamente ci è stato fatto per tanti altri che prima o dopo verranno lambiti dalla luce, dall'onda, diciamo, no? Che si è manifestata potente, l'onda di grazia che ci ha avvolti ieri. Ecco, per cui un grande saluto. E a questo messaggio vocale farò seguire un'email dove presento un programma che ci potrà consentire di aggiornare sia la comunione d'anima tra di noi che le eventuali idee e iniziative che potrebbero essere messe sul tavolo online, in diretta, senza rubare tempo a nulla, perché come vi accorgerete si tratta di un programma di condivisione estremamente d'utile. Allora un grande abbraccio, ciao e sempre uno!